Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io sono Miles, lavoro con Ethan. Ethan? L'ex di Amanda, l'ex. Ah, certo. Sì. Certo. Tutto bene? Oh, sì. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ah, io non lo sopporto, mi faccia vedere. È colpa del Sant'Anna. Prego? Del vento. È per questo che fa così caldo. Dice la leggenda che quando soffia il Sant'Anna tutti i patti vanno all'aria, tutto può succedere. Giorni di fuoco, l'Italia nella morsa di afa, nuova ondata di aria torrida. Ogni anno sembra che qualcuno debba ricordarci che è estate e che in estate fa caldo. Ma questi in effetti sono giorni bollenti. Oggi le città a rischio sono 6, Bolzano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Trieste. In linea con noi Massimiliano Pasqui, ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR. Buongiorno dottore. Buongiorno. Dottore, possiamo dire che siamo di fronte a giornate bollenti, alla prima vera ondata di calore di quest'estate? Probabilmente sì, nel corso dell'estate che abbiamo appena vissuto, tutto sommato le temperature sono state comunque abbastanza gradevoli, tranne alcuni piccoli periodi in cui le temperature appunto hanno raggiunto valori abbastanza elevati, però adesso siamo di fronte a un periodo particolarmente lungo, si presuppone una decina di giorni in cui le temperature saranno molto alte, soprattutto nei valori massimi, e questo su tutte le nostre regioni. Quindi quello che ci permette di definire questo periodo come un periodo con un'ondata di calore è la durata e anche l'intensità del caldo, no? Sono queste le due variabili. Esattamente, in quanto per ondata di calore si intende comunque un periodo di caldo abbondantemente sopra i valori normali, e tenete conto che per avere dei valori di riferimento, quando abbiamo delle temperature massime che superano i 35 gradi e quindi stanno in questa forchetta 35-40 gradi, poi a seconda delle zone dell'Italia, comunque stiamo in presenza di valori particolarmente anomali, e la durata naturalmente fa poi la differenza, perché per ondata di calore abbiamo appunto un periodo eccezionalmente caldo, e quello che stiamo per vivere potrebbe essere tale. Quindi per i prossimi 8-10 giorni bolliamo? Al momento le previsioni ci indicano un periodo del genere, quindi arriviamo direttamente nei primi giorni di agosto con temperature abbondantemente sopra i valori della media. Naturalmente ci saranno dei momenti di massimo, e questo è previsto in particolare per i giorni del weekend, quindi già a partire da domani, però per quanto riguarda l'intero periodo, appunto fino a gran parte della prossima settimana, ci atteniamo delle temperature veramente roventi, con temperature anche minime, cioè quelle notturne, abbastanza alte, che rendono particolarmente afosa e comunque poco sopportabili poi le giornate. Per tutte le informazioni del caso, il sito del Ministero della Salute, vi ricordo, ha proprio una pagina ad hoc sulle ondate di calore. Tutte le informazioni sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Ricordo che anche su questa pagina è possibile scaricare opuscoli utili sull'alimentazione, consigli per i bambini, per gli anziani, viaggiare sicuri. Dottor Pasqui, sopravviveremo. Sì, diciamo che l'attenzione soprattutto va a chi rimane in città, perché naturalmente le città, proprio per la loro morfologia e per il fatto che ci troviamo in zone che comunque hanno una scarsa copertura vegetale, naturalmente determinano le condizioni di maggior affaticamento per il nostro corpo. Però dobbiamo dire che finora ci è andata particolarmente bene, perché l'estate del 2013 fino ad oggi comunque ci ha regalato delle belle giornate, caratterizzate da temporali anche violenti purtroppo, ma comunque con le temperature ci è andata particolarmente bene. Ecco, direi di non lamentarci tanto, ma approfittarne per concederci dei ritmi più lenti. Il caldo invita. E lo assecondiamo. Caldo in vita, e adesso abbiamo un'occasione più unica che rara di sfruttare. Fantastico, ritmo lento. Dottor Pasqui, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Cittadino avvisato, cittadino rinfrescato. Non resta che fare di necessità virtù, tanto più che il caldo ha i suoi vantaggi. E in linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, un caldo buongiorno. Buongiorno e salutiamo anche il dottor Luca Boledo, naturopata, che è qui in studio con me, bello fresco, perché noi dagli studi di Radio 24 abbiamo un'arietta condizionata che è un bijou. Buongiorno anche buongiorno, a lei. Buongiorno. Buongiorno Luca. Ciao Attilio. Dottor Speciani, uno dei vantaggi del caldo è che la voglia di fame diminuisce. Sì, direi che non solo questa, c'è una situazione in cui la richiesta, tutto sommato, legata proprio al calore esterno, non ci invita a creare gli effetti da spezzatino con la polenta, no? Che magari in inverno vengono in testa. Quindi io dico che ce n'è anche un altro molto carino, che è il recupero del valore dell'acqua. Le persone hanno una ricerca maggiore dell'acqua come dissetante, come bisogno, è come se diventasse un po' la consapevolezza della propria possibilità, dei propri bisogni, delle proprie necessità, ed è bene che magari uno poi faccia memoria e porti questo tipo di situazione nella propria vita. Un'altra, che c'è più frutta e quindi le persone le vedi che girano cercando i colori, per cui questi bellissimi, queste esposizioni che ci sono nelle strade di frutta multicolore che viene dalle varie regioni d'Italia, in cui le persone si fermano, raccolgono fragole, mirtilli, uva, tutto quello che possa essere, albicocche fantastiche, ed è un dato, perché a volte bisogna litigare con le persone perché mangiano la frutta e finalmente riusciamo ad avere un rapporto con cibi freschi, vitali e colorati che fa bene. Dottora Boledo, un altro vantaggio del caldo, perché a sapere che il caldo ha anche i suoi vantaggi, questo può anche rinfrescarci un po'? C'è caldo perché c'è il sole. E il sole è vita, ci dimentichiamo, anche perché siamo stati un po' terrorizzati per lungo tempo dai danni del sole, tumore della pelle, queste cose, ma il sole è necessario per sintetizzare vitamina D, che è una vitamina che ci preserva dall'osteoporosi, dal rachitismo, aiuta a allontanare il rischio di diabete e rinforza il sistema immunitario, e non è una vitamina molto rappresentata nell'alimentazione, è presente nelle uova, nel pesce grasso. L'organismo è in grado di sintetizzarla dal sole, esponendosi anche per un quarto d'ora in questo periodo un paio di volte al giorno, e sintetizza fino a 10.000 unità internazionali di vitamina D, cioè migliaia di volte di più di quello che può assumere con il cibo. Il sole fa bene, avviciniamoci per gradi, quindi senza scottarci, ma per sintetizzare vitamina D è necessario non proteggersi con le creme, perché già con un fattore di protezione pari a 8 la radiazione UVB non viene, come dire, colta dalla pelle. Basta, quindi, d'altronde, esporsi un 15 minuti. 15 minuti, un paio di volte alla settimana. Braccia e gambe scoperte. Benissimo, un po' anche in città. Anche in città, portando fuori, ieri parlavamo di cani, il nostro cane a fare due passi. Dottor Speciani, un altro vantaggio del caldo? Dai, mettiamo una notazione hot in questo giorno caldo, che in estate ci si spoglia, che non è un brutto vedere, voglio dire, a volte, cioè insomma, comunque risveglia. Dipende. Qualche spunto, uno capisce che esistono gli ormoni. Dipende chi si spoglia, dottor Speciani. Bene. Voglio ritornare a uno di questi vantaggi del caldo, che è quello di spegnere un po' l'appetito, abbiamo più voglia magari di bere che di mangiare, ma attenzione, vorrei parlarne col dottor Speciani, se non avete tanta fame, tendete a saltare i pasti, non saltate la colazione, perché rischiate il cuore. Dottor Speciani, c'è una ricerca molto interessante di cui vorrei parlare con lei, uno studio appena pubblicato dai ricercatori dell'Harvard, quindi vogliamo citarlo, anche perché noi da sempre insistiamo sull'importanza della prima colazione. Ecco, lo ridico anch'io, che questa è una cosa sensata, che a Radio 24 in realtà battiamo i semi oleosi, la prima colazione sono tra i temi forti delle nostre comunicazioni che diamo ai nostri ascoltatori, e qui va a riprendere proprio quello che emerge negli ultimi anni dagli studi dei messaggi che il cibo può dare, e riuscire proprio a situare un'assunzione ricca di alimenti all'interno dei primi momenti dopo il risveglio determina un cambio proprio di ormoni che vengono prodotti in maniera completamente differente. È interessante questa ricerca, perché definisce con chiarezza sincerezza che chi non fa una prima colazione in realtà rischia di esporsi a problematiche cardiologiche, all'aumento del peso fondamentalmente, ad alterazioni del ritmo tiroideo, della funzione tiroidea, cioè tutto quello per cui poi la gente tende ad andare dal medico dicendo mi dia un farmaco, mi dia una medicina, quando realmente metà della potenzialità in realtà risiede in scelte. Allora, sfruttiamo, abbiamo questa situazione di calura esterna, dove mangiare a mezzogiorno col caldo veramente fa stancare e dà fastidio a tutti. Siamo ancora al fresco, magari al mattino appena ci svegliamo. È l'occasione vera per fare qualcosa di sensato per noi. Grazie, dottor Speciani, per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Anche voi tutti, davvero, di cuore. Come caldo questo sole, come calda la tua pelle, che si brucia sulla sabbia. Anche il mio cuore è caldo, come il mio amore, questo amore che ho per te. Ma se nonostante tutto il caldo vi taglia le gambe, sedetevi e restate. 800 24 00 24, il nostro centralino è a vostra disposizione, rinfrescatevi con il nostro numero verde, scriveteci al 349 238 6666 oppure come sempre potete seguirci su Facebook, l'hashtag di oggi è Fa Caldo, su Twitter. Dottor Avoledo, dimmi dove senti il caldo e ti dirò che... Dirò che in questo periodo la sensazione di caldo può essere percepita in tanti punti diversi del corpo, chi prende la testa, chi prende i piedi, chi prende le mani, che è una sensazione più generalizzata. Per tutti costoro possiamo pensare ad alcuni rimedi naturali, a parte dell'alimentazione di cui parlava il dottor Speciani, senz'altro sì, approfittiamo del fatto che abbiamo più sete, quindi beviamo certo. Di più. E da questo punto di vista colgo l'occasione per parlare di una degli alimenti e delle bevande più interessanti per l'estate, che sono i centrifugati. Avete un'automobile? Buttatela via e comprate una centrifuga. La centrifuga è un elettrodomestico meraviglioso che costa meno di un'automobile e permette di fare i centrifugati, che non sono i frullati, sono proprio i veri succhi di frutta, ma non quelli che si comprano, quelli proprio fatti in casa, di frutta e di verdura insieme. Questo consente di portare a casa tanti vantaggi in un colpo solo, perché beviamo tanta acqua di grande valore biologico, quella della frutta, per fare un bicchiere ci vogliono due o tre frutti, se non di più, vitamine e minerali come il potassio, che poi magari ne parleremo ancora meglio, che è il minerale principe della stagione estiva che ci sostiene, è un minerale anticaldo, antistanchezza. Utilizziamo quindi centrifugati di frutta e verdura con il ghiaccio, vanno benissimo, è una sensazione di refrigerio. Quindi meglio il centrifugato del frullato. Il centrifugato è più liquido, quindi ha più la sete. Perché il centrifugato non ha la polpa, non ha la fibra, e quindi proprio il vero e proprio succo. Non possiamo sostituire ovviamente tutta la frutta giornaliera col centrifugato, perché manca una parte importante che è la fibra, ma un bel bicchiere di centrifugato quando abbiamo sete va benissimo. Allora, ciascuno di noi ha, e l'abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook, i personali rimedi anticaldo. Se volete intervenire, 800 24 00 24 per suggerirceli. Noi siamo qui, intanto alcuni amici lo hanno già fatto su Facebook. Marino scrive che si beve 2 litri di tè verde tiepido senza zucchero. Anche questa è un'indicazione interessante. Apriamo una parentesi sul tè verde. Senza zucchero sì, tè verde. Cibo medicina, ne parliamo spesso, non ha spiccatissime proprietà anticaldo rispetto ad altri rimedi naturali. Cosa suggeriamo a Marino, in alternativa o in sostituzione? Allora, in sostituzione la menta piperita, foglie fresche, prendete un bel vaso di menta, mettetelo sul balcone o sul davanzale, la menta piperita spezzettata, che è quella che si usa poi nelle caramelle, ne sfruttano un po' tutti gli effetti rinfrescanti, ha degli effetti dimostrati in grado di rinfrescare l'organismo, refrigeranti, foglie spezzettate di menta, acqua bollente, sopra le foglie fresche, si lascia in infusione, si filtra e poi si può consumare anche fredda, messa in frigo. Se il nostro Marino vuole bere il tè verde, ci aggiunga 2 o 3 foglie di menta. Giuseppina ci scrive che mangia molta frutta, insalate, tanta acqua naturale, non fredda ma fresca, e ovviamente non si può fare a meno dei condizionatori. I condizionatori, io trovo anche in studio molte persone che hanno un po', come dire, un'impostazione ideologica che non vogliono utilizzare i condizionatori. Se l'alternativa è non dormire di notte per il caldo ed essere spossati tutto il giorno, evviva i condizionatori che li hanno inventati, tenendoli però non a 18 ma a 27 gradi centigradi, con una differenza rispetto all'ambiente esterno di pochissimi gradi o non di troppi. Questo consente di essere freschi, lucidi, non spossati e di non ammalarsi per colpi di freddo improvvisi. Laura forse non ha il condizionatore a casa e dice che facendo gli straordinari al lavoro si rinfresca perché al lavoro c'è l'aria condizionata. Silvino beve molto e Carlo invece suggerisce il cotechino e le lenticchie. Le lenticchie, direi che potremmo rimandarlo alla puntata del novembre. 25 dicembre. Per me funziona, ad esempio, mettere i polsi sotto l'acqua, sì. Funziona. Oppure ancora i piedi a bagno, questo si può fare solo a quando si torna a casa, perché in ufficio diventa un po' difficile mettere il piede nella lavandina. Però dare un attimo in bagno, mettere i polsi sotto l'acqua, invece sì. Ecco, l'effetto radiatore. Dottor Avoledo, nell'attesa delle telefonate dei nostri ascoltatori a cui chiediamo di intervenire per suggerirci i loro rimedi anticaldo, ma anche per chiederci dei consigli per aiutare a prendere il buono da questo caldo, questa ondata di calore che, come ci ha anticipato il dottor Pasqui, durerà almeno una decina di giorni, allora surfiamo tra le onde di calore e cerchiamo di vincere un po' quella spossatezza che è un po' la caratteristica di questi giorni. Ci sentiamo tutti sempre umidicci e anche le persone che incontriamo aumentano anche un po' la nostra sensazione di caldo, perché vedere sempre davanti a noi, incontrare sempre persone che sono sfatte dal caldo, anche se non lo senti, verissimo, lo avverti. C'è questa, non so, sarà è una forma di una cosa dei neuroni a specchio, è chi vero. Lo sa, perché quando vedi una persona davanti a te sudata che inizia a dire oh caldo, anche mi se non caldo. Ce l'hai, ti fai caldo. Quindi dottor Avoledo, ma la spossatezza, ci sono persone che l'avvertono sin dal primo mattino, sì. Ecco, in questi casi oltre alla doccia rinfrescante che cosa si può fare? Allora si può, accennavamo prima, verificare che la nostra alimentazione sia sufficientemente ricca di un minerale almeno, che è il minerale protagonista della stagione calda, che è il potassio, come sanno bene alcune aziende che infatti pubblicizzano in questo periodo molto intensamente gli integratori di magnesio e potassio, antiastenici, antistanchezza, ci sostengono, sostengono il nostro tono anche di tipo nervoso. Il potassio però è ben presente anche in tanti cibi, quindi sono, per fortuna sono proprio i cibi dell'estate, frutta e verdura sono ricchissimi di potassio, e anche qua sfruttiamo magari con i centrifugati di cui dicevamo prima alcuni tipi di frutta molto ricchi di potassio, albicocche, prugne, pesche, proprio la anguria, proprio la frutta di questo periodo. E do anche un consiglio: è vero che il sale potrebbe aiutare ad innalzare la pressione in questo periodo, alcuni suggeriscono di aggiungere le pietanze, ma il sale fa anche male, non è un bel modo di alzare la pressione. Quindi il potassio, che comunque ha degli effetti tonici interessanti, sì, ricerchiamolo in alcuni cibi, sostituendo magari il pane, i cracker, i grissini, che sono molto presenti nella nostra alimentazione, sì, in questo periodo con delle belle patate, magari non troppo grosse. No, perché grosse. Stavo pensando che lei mi dicesse con delle belle albicocche, e le avrei detto ma come faccio a fare la scarpetta con l'albicocca? No, albicocca a parte. Al posto del pane utilizzate delle patate bollite, non cotte troppo, prendetele piccole, quindi si cuociono piuttosto in fretta, sì, questo evita che il potassio venga disperso con la cottura, e mangiatele in accompagnamento per esempio al secondo, e sono molto ricche di potassio e anche di vitamina C, basta che non le cuociate tanto. Rimedi anticaldo, e questo riduce anche l'indice glicemico, vero? La patata non cotta molto, ma qua ma veramente la sappiamo lunga. Ma quante ne so, c'è anche un video che ho fatto, lei mi smaschererà subito, sulla pagina di Facebook c'è proprio un video molto carino, secondo me, che ho fatto col dottor Speciale, sulla ecco, patata. Ecco. La patata cotta poco, è meno ingrassante. Bravo, diciamo così, io faccio la doccia che parte fresca e finisce molto calda, quando esco mi sembra di stare meglio di quando esco dopo una doccia fredda, ci scrive Paolo da Lecco, quindi questa combinata, caldo, freddo e poi caldo, e poi via. Benissimo. Mentre Marta dalla provincia di Padova mi chiede come mai quando inizia il caldo io di notte ho sempre un certo nervosismo alle ginocchia, anche con il climatizzatore acceso. Prudono le ginocchia, c'è una sindrome delle gambe senza riposo. Sì, ne abbiamo parlato alcune volte. È una sorta di frenesia, di nervosismo che coinvolge però l'intera gamba, e quindi abbiamo bisogno di scendere, di fare due passi e passa, vero? Sì, il caldo poi appunto provoca dei fenomeni di nervosismo. Anche qua ci sono dei rimedi che possono essere utili, soprattutto per favorire il riposo notturno. Una bella tisana, per esempio, di verbena e di melissa, anche qua si può bere a temperatura ambiente o anche fresca, facilita il sonno e magari calma certi stati un po' ansiosi di nervosismo che possono interessare la nostra ascoltatrice o qualcun altro. Allora, noi lo sottolineiamo tutte le volte, quando noi parliamo, il dottor Avoledo, i nostri esperti parlano di erbe, di integratori e delle proprietà di queste sostanze, ci rivolgiamo sempre a delle persone, no? Assolutamente senza alcuna patologia, persone sane, e comunque la nostra indicazione è sempre: nel momento in cui voi decidete di prendere un integratore, di affidarvi a un preparato fitoterapico, parlatene con il vostro medico curante, giusto dottor Avoledo? Sì, soprattutto, soprattutto sì, stiamo parlando del soggetto complessivamente piuttosto sano, poi certo, nessuno è perfettamente sano, soprattutto se compaiono nella vostra vita, nella nostra situazione, delle situazioni nuove di salute, la prima cosa da fare è parlarne con il medico, non prendere un integratore a caso. E soprattutto se state prendendo farmaci, parlatene con il medico se volete prendere qualche pianta, qualche erba, perché potrebbero interferire magari con le terapie che state seguendo. Per sudare meno, legare al collo un fazzoletto di cotone come facevano i contadini. Io potrebbe essere, provate. Tra i vari organi che sembrano un po' messi KO dal caldo c'è sicuramente il nostro cervello, e noi lo sentiamo, infatti, che ci sentiamo spesso affaticati a livello mentale, facciamo più fatica a concentrarci e siamo anche più irritabili, un po' scostanti. D'altronde abbiamo buone ragioni per sospettare che il caldo non gli piaccia a lui, su in cabina di regia, perché secondo i modi di dire, se il cervello è surriscaldato, effuso, va addirittura in fumo, non promette granché di buono. In linea con noi abbiamo il professor Perna. Buongiorno psichiatra, buongiorno a lei, professor Perna. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. A caldo? Ho caldo, sì, adesso sono chiuso nel mio studio al fresco, quindi sto molto allora, bene. Allora, stia lì professor Perna, perché noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, consigli per chi si sente un po' il cervello in fumo. Essere e benessere. Dalla testa può mettere in difficoltà il nostro cervello, infatti la concentrazione si fa più difficile, faticosa, ci impegniamo tanto e vediamo pochi risultati. È stanchezza o è caldo? Professor Perna. Ricordiamoci il detto popolare molto chiaro dei nostri padri antichi: mens sana in corpore sano. Questo vuol dire che il nostro cervello ascolta sempre il corpo, e se il corpo soffre anche la mente soffre. Ricordiamoci che il cervello ha dei sistemi di compenso che ci aiutano a gestire molto bene i cambi di temperatura, però ascolta il corpo, tant'è che la pelle è una delle zone più riccamente innervate del nostro corpo, e che cosa fa? Trasmette le sensazioni che noi abbiamo al nostro cervello, quindi il calore e la sudorazione, soprattutto l'umidità, vengono a risentirsi a livello del nostro cervello. L'eccessivo calore crea forte disagio fisico, ci fa sentire stressati, no? Uh-huh. E influenza negativamente proprio la memoria, la concentrazione e l'attenzione. Cosa fare? Raffreddare il corpo, raffreddare la temperatura, quindi sicuramente consigli ne sono stati dati a go-go, ma ancora più ricordiamoci che raffreddiamo il corpo, aiutiamo la mente. Professor Perna, anche l'umore diventa abbastanza ballerino durante il caldo e tende verso la collera, l'irritabilità. Sì, questo è verissimo. Purtroppo proprio quel senso di malessere e disagio fisico ci rende in qualche maniera più suscettibile a reagire in maniera rabbiosa e irritabile quando ci confrontiamo con gli altri. Quindi cosa bisogna fare? Prima di discutere con qualcuno, Uno, molto banalmente, beviamoci una bella bibita fresca. Teniamo una bottiglia d'acqua fresca sul tavolo non solo per noi, ma anche per la persona che abbiamo davanti. Mm. L'altra cosa è l'ambiente, il ventilatore, piuttosto che l'ambiente rinfrescato e l'aria condizionata, possono aiutare a ridurre la temperatura anche emotiva che si crea e quindi ridurre quegli scatti di rabbia e irritabilità che purtroppo capitano a tutti. Io sfido una persona a farsi un bel giro al centro di Milano con il traffico, con o senza condizionatore. Secondo me le esplosioni di rabbia sono molto maggiori in quelli che devono sopportare il fatto di non avere il condizionatore. Grazie professor Perna, buona giornata. Buona giornata a tutti. E noi abbiamo Alfredo da Brescia e Fabio da Taranto e il dottor Avoledo pronto a dare i suoi consigli, i suoi rimedi anticaldo. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare questa domanda, si parla tanto di bere, sì, e oggi come oggi ci sono tanti tipi di acque, quelle con basso residuo fisso, quello con un alto residuo fisso. Cos'è consigliato bere per stare meglio come acqua? Quella con un basso residuo fisso o con un alto residuo fisso? Dottor Avoledo, allora leggiamo l'etichetta, una domanda che sono certa le piacerà molto quella di Alfredo. Interessantissima, dovremmo fare una puntata intera, ma vediamo di sintetizzare. A mio avviso un po' tutte, questo in generale nell'anno, nel senso che il residuo fisso, che è sostanzialmente la quantità di sali minerali disciolti, detto in parole semplici, alcuni di questi sali sono, e si è visto scientificamente provato, assorbibili dall'organismo, in particolare il magnesio e il calcio, quindi chi ha necessità di assumere questi minerali può assumerli anche dall'acqua. È vero che però più minerali ci sono, più l'acqua è un po' pesante, infatti alcune si sentono al gusto, e io invece per l'estate suggerirei le acque più leggere possibili, quindi quelle che si chiamano minimamente mineralizzate, neanche oligominerali, ovvero con un residuo fisso inferiore a 50, lo trovate scritto in etichetta. Queste sono le acque più leggere, più depurative, si bevono ancora con più facilità, ma nell'anno alterniamo un po' tutte le marche e tutti i tipi di acqua, in maniera che appunto in alcuni casi assumiamo i minerali dall'acqua, in alcuni altri invece beviamo acque molto molto leggere, potendo scegliere, questa è una cosa che si trova con molta fatica, acqua in vetro. Il gasata, o se per chi sceglie la bottiglia, gasato naturale non più fa differenza, a pasto, fuori pasto, a piccoli sorsi meglio che... A piccoli sorsi dissete di più perché dà tempo alla bocca e quindi anche al cervello di percepire che stiamo bevendo. Beviamo durante tutta la giornata, compreso i pasti, alcuni dicono a pasto non si beve, no, un po' si beve. È chiaro che se si deve bere per mandar giù il boccone è un problema di errata masticazione, allora quelli l'acqua non serve. Il senso della sete che si prova a pasto va soddisfatto però. Fabio, buongiorno da Taranto. Buongiorno. Da Taranto, in transito, perché il mio lavoro è un lavoro di organizzatore di spettacoli, per cui questa è la mia stagione e io in realtà... Che spettacolo sta organizzando, Fabio? Spettacoli di stuntman, auto e motoacrobatiche, siamo a Ginosa Marina, però quello che è più che delle domande, io volevo fare delle considerazioni, cioè l'estate di per sé è una stagione in cui basterebbe rallentare un attimo i ritmi, nel senso che il fatto del caldo naturalmente ci costringe a un ritmo più tranquillo, ma riducendo i ritmi si ottiene comunque una migliore, infatti quelli che stanno in vacanza soffrono molto meno il caldo di quelli che devono lavorare, quindi il caldo è un fattore variabile, in più un abbigliamento naturale in cotone, dei frequenti cambi, un po' i consigli di nonna papera, cioè alla fin fine noi oggi siamo prigionieri un po' dell'idea del caldo come dell'idea del freddo e in qualche maniera credo ci facciamo condizionare dalla notizia che farà caldo, noi cominciamo anticipiamo a sentire il caldo prima ancora che arrivi, adesso in questi giorni è iniziato il caldo, durerà un mese e poi saremo nuovamente a dire attorno al freddo. Però penso sia una filosofia di vita. Insomma, ci vuole un andamento lento e un vestitino leggero e poi andare avanti, perché il caldo è estate, fa caldo e poi arriverà l'inverno e avremo freddo, ma siamo attrezzati per sopportarlo. Fabio, grazie per essere intervenuto, le auguro una buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Grazie, buon lavoro. Dottor Avoledo, abbiamo parlato di testa. Io vorrei parlare anche del secondo intestino, del secondo cervello, che in estate può soffrire, di qualche contatto. E poi scenderei, perché l'estate è purtroppo una stagione in cui noi donne possiamo incorrere spesso in un problema molto fastidioso, che è la cistite, infezione delle vie urinarie. In questo soprattutto sottolineiamo l'importanza della idratazione, anche per anche quando tendiamo a non bere, magari per la paura di sudare un po' troppo, e poi cercheremo di prevenire questi disturbi che sono più frequenti proprio nella stagione calda. Ad esempio, chi soffre di calcoli renali sa bene che l'estate, quando la colonnina di mercurio sale, si impennano anche i numeri delle persone che soffrono di calcoli renali. Quindi, dottora Voledo, occupiamoci anche del nostro secondo cervello. Molto volentieri, è tutto sacrosanto. Portiamoci via due rimedi per le vacanze, teniamo le portate di mano, uno per l'intestino e uno per le vie urinarie. Giustamente anche la cistite è un disturbo che interessa soprattutto il gentil sesso, soprattutto nella stagione calda. Per l'intestino acquistiamo un buon integratore probiotico, quelli che comunemente vengono chiamati fermenti lattici, sì. Non è un termine del tutto corretto, probiotici è quello giusto. Alcune indicazioni. Bravo, innanzitutto teniamoli d'estate in frigorifero. È vero che alcuni tipi di fermenti con le tecnologie produttive attuali sono resistenti al calore, molti no, magari non lo sappiamo. Teniamoli in frigorifero. Perché anche il probiotico ha caldo. Anche il probiotico soffre il caldo, quindi teniamo in frigorifero. E poi due indicazioni per scegliere bene. Ce ne sono un sacco, una sporta di probiotici in farmacia, anche al supermercato ormai. Ai nostri ascoltatori piacerebbe dare due indicazioni per sceglierle bene. Imparate a leggere le etichette, su cui trovate delle informazioni preziosissime. La prima, i batteri che ha dentro, perché i probiotici sono batteri, devono essere in numero significativo e guardate che siano indicati almeno da 3 miliardi a 10 miliardi, stiamo parlando di numeri molto grandi, spesso sono indicati come UFC, unità formanti colonie, sostanzialmente è il numero di batteri, da 3 a 10 miliardi sono quelli che ci servono. E guardate che siano dei fermenti lattici, dei probiotici multiceppo, cioè che ci siano più specie di batteri, almeno 5. Li trovate scritti: lattobacilli, bifidobatteri, acidophilus, lactobacillus acidophilus. Questo ci garantisce di avere lo spettro completo dei batteri amici che servono per il benessere del nostro intestino. Possiamo dire quindi, per ricordarci, pensate al 5. Pensate al 5. Perché ce ne devono essere almeno 5 ceppi e anche 5 miliardi è un'ottima via di mezzo. Vero, così ricordiamo, perché poi davanti alle... Cosa mi aveva detto? 3, 5, 8... Allora, 5. 5 ceppi e 5 miliardi per esigenze di tipo generale, ovviamente. Se ci sono esigenze specifiche, queste indicazioni devono essere un po' più mirate. Per quanto riguarda invece le infezioni delle vie urinarie, cistite, cambiatevi il costume. Quando è bagnato, togliamo il costume, una bella doccetta, e ce ne mettiamo un altro. Non sediamoci col costume bagnato al bordo della piscina, eccetera. Questo sicuramente è un'indicazione preziosa. Senz'altro sì. E ancora qua tornano fuori innanzitutto i probiotici, come abbiamo detto, perché la cistite vuol dire un intestino spesso che non funziona bene. L'escherichia coli, che è il batterio tipico delle infezioni della cistite, proviene dall'intestino, quindi innanzitutto mettiamo a posto l'intestino e i probiotici, ne abbiamo già parlato. Non basta, tenete a portata di mano un rimedio che si chiama dimannosio. Questo non lo conoscono ancora in tanti. Sì, è il rimedio dimannosio, è uno zucchero. Sembra, ma non fa... il nome di un generale, dimannosio. È uno zucchero. Vero? Ah, dimannosio. Che non fa ingrassare, però, perché non viene assorbito, e viene estratto di solito dal legno dell'aricio della betulla, è in vendita tipicamente in bustine o in compresse, e ha il vantaggio che quando viene ingerito i batteri si attaccano a lui invece che alle pareti della vescica. Come una carta moschicida. Una calamita, una carta moschicida naturale. Quando poi si fa la pipì, il dimannosio viene espulso dal corpo insieme ai batteri adesso attaccati. Ma questa è bellissima. Laura Vanossi mi fa già una cosa per il taglio, perché non solo perché dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico, ma perché questo lo taglia, è una notiziola che noi naturalmente metteremo sulla nostra pagina. Dimannosio. Ma quante ne sa. Anna da Brescia, prima delle strade, vuole intervenire? Signora. Buongiorno a lei. Senta, soltanto una piccola cosa, lei sta parlando di cistite, mi piacerebbe sentir parlare anche di vampate e di caldane, che con questo caldo sono per le donne una cosa terrificante. Ma ne parliamo, Anna. Ne parlerete. Ne parliamo, resti con noi, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico, tra poco. Essere e benessere. Totora Voledo, vampate, eh? Gli uomini non sanno neanche che cosa, no? Che cosa voglia dire sentirsi dentro un carburante, non so. E neanche le donne giovanissime. Però, insomma, c'è questa sensazione, sembra di bollire, perché questo caldo che ti invade con sudorazione. Era uscito uno studio interessante che sottolineava un effetto quasi protettivo delle caldane per il cuore, ma questo non aiuta a sopportarle meglio, quindi ci deve aiutare lei. Le vampate, le caldane, come vogliamo chiamarle, sono un segno caratteristico dell'avvicinarsi o del fatto che sia arrivata alla menopausa, interessano tantissimo le donne, quindi diciamo intorno ai 50 anni. Ci sono delle erbe che aiutano tantissimo, le erbe a fitoestrogeni, che non sono degli ormoni ma delle sostanze vegetali che però nel corpo si comportano un po' quasi come degli ormoni e aiutano a mitigare la frequenza, l'intensità delle caldane, delle vampate e tutta anche una serie di disturbi che compaiono in questo periodo. Vanno presi per periodi un po' lunghi, quindi se ci sono adesso ormai non c'è da aspettarsi un granché da queste piante a fitoestrogeni. La più nota di tutte è la soia, per esempio, che usa anche come integratore, e un'altra che mi piace molto è la cimicifuga racemosa, che era un'erba utilizzata dagli indiani, infatti era chiamata erba squo, l'erba delle donne degli indiani. Si prendono per diversi mesi per ricaricarsi un po' di fitoestrogeni e questo modula tantissimo i sintomi come le vampate e simili. Il caldo ci taglia le gambe, per chi fa sport questo può essere un problema, tutto diventa faticoso, pesante e a fronte di tanto impegno si vedono minori risultati, ma individuato il problema, come si dice, noi possiamo trovare la soluzione. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare, sotto questo sole rossi col fiatone. Non sta pedalando, ma si sta allenando per affrontare il campionato europeo di corsa in montagna di 80 km a Recoaro, quindi sulle piccole Dolomiti. Tite Togni, ciao Tite. Namaskar, namaskar. Ma che cosa mi stai combinando, Tite? Beh, quassù fa caldo persino quassù, quindi non oso immaginare laggiù. Io sto benissimo, guarda. Ah, va bene. Perfetto. Ma io anche quando esco non mi sei. Però insomma capisco che il caldo si fa sentire in città, tu stai sicuramente meglio, ma gli sportivi al caldo fanno fatica. Hai dei consigli? Beh, lo yoga ha dei consigli. Sai che lo yoga tira fuori sempre le possibilità e gli strumenti per uscire dalle difficoltà dall'interno. E allora, in questo caso, ci sono due facilissimi esercizi di respirazione in cui praticamente la nostra bocca la trasformiamo nel condizionatore, in un condizionatore. Tutto sta come mettiamo la lingua. Ci sono due facili esercizi, Sitali e Sitkari. Sitali, in ogni caso, in entrambi i casi si tratta di mettere la lingua in modo che diventi o una cannuccia per chi riesce ad arrotolarla ai lati, tra la bocca, tra i denti, oppure Sitkari, se non si riesce ad arrotolarla a mo' di cannuccia, perché non è dato a tutti, semplicemente premere la lingua contro gli incisivi, si dice trasformandola come una fogliolina di menta. In entrambi che non casi, a caso è rinfrescante. Esatto, e in entrambi i casi, che sia come cannuccio, che sia come fogliolina di menta, la adoperiamo per inspirare in questa posizione. Inspiriamo e poi espiriamo normalmente dal naso. E poi di nuovo possiamo ripetere tutte le volte che vogliamo. Lo possiamo fare da seduti, ma anche da in piedi, anche correndo. Eccola qua, la respirazione rinfrescante. Riesco a piegare la lingua, anche il dottor Avoledo. Siamo bravi, che bravi. Siete dotati, siamo super dotati, Tite, noi esatto. Super dotati. Senti, voglia, non so perché ridi, ma io penso di sì. Comunque, possiamo alleggerire anche le gambe, soprattutto per te che corri, ma per tutti i nostri ascoltatori che continuano ad allenarsi, sono runner, fanno le maratone. Io le vedo in estate al parco Ravizza, al mattino sono ancora lì che corrono, la sera che corrono. Come possono fare per alleggerire le gambe? Noi abbiamo, tu hai suggerito una posizione che tra l'altro vi anticipo già, che l'abbiamo già in questo momento, vero Laura? Messa sulla nostra pagina. pagina, per cui chi non capisce, guardi. Andiamo. No, ma molto, è molto facile. Prima di tutto una posizione di assoluto riposo, perché riportare il respiro e il relax vuol dire portare spazio e quindi freschezza, perché il contrario è compressione, calore. È la posizione del ciabattino sdraiata. Sì. Praticamente ci si mette sdraiati con le piante piegando, flettendo le ginocchia e portando le piante dei piedi unite il più possibile vicino agli inguini. Io consiglio con i piedi contro una parete, contro qualcosa che ferma la posizione dei piedi, in modo che ci si lascia semplicemente andare a respirare in questo modo, perché è rinfrescante, perché non solo una posizione di sdraiata, quindi le gambe vengono decongestionate, e poi perché vogliamo riportare il respiro, quindi aria e freschezza nei punti più congestionati, soprattutto di chi fa sport, che non sono tanto le gambe quanto ancora di più la zona del bacino. Quindi rilassiamo, guardiamo la posizione, se non c'è chiara, sulla nostra pagina, sulla pagina del programma Essere Benessere Eta Radio 24. Scusate, stavo dando via la mail. Tite, quindi quando è che correrai? Sabato? Se venerdì notte, cioè sabato mattina all'una. Sabato mattina, ah, mamma mia, senti, noi ti penseremo, intanto scrivici. Grazie. Il nostro profilo. Senz'altro. Facebook, sei amica nostra, potete diventarlo anche voi, grazie Tite. Vi aspetto tutti, namaste. Buonissima giornata. Il dimannosio, mi scrivono molti ascoltatori, come si prende al posto dello zucchero? È uno zucchero, ma non è lo zucchero da cucina. Lasciate perdere, che se lo chiamiamo sostanza. Si prende, di solito io preferisco quello in bustine, a digiuno, al risveglio, una bustina al giorno come mantenimento e prevenzione per chi soffre di cistiti ricorrenti. Si mette in un bicchiere d'acqua questa bustina a digiuno, dopo aver svuotato la vescica, e non si beve, non si mangia per un'ora per ricaricare nel corpo. Ah. Poi si beve e a quel punto si urina abbondantemente. A proposito, per quanto tempo si devono prendere i probiotici? Ci scrive Tina, questa è una domanda, e le voglio anche sottolineare un commento di Giulio che dice che il discorso dei multiceppi per i probiotici è errato, perché tutta la letteratura parla ormai di monoceppo. Allora, monoceppo, multiceppo, quanti ne prendo? Non so che letteratura faccia riferimento Giulio, ma semplicemente non è così. I monoceppo possono avere un senso se si cercano delle azioni specifiche, per esempio per la candida vaginale si potrebbe scegliere il Saccharomyces cerevisiae boulardii, che è un ceppo interessante. Per un mantenimento sano, cioè nel nostro intestino esistono decine di ceppi di specie e di ceppi batterici diversi, se vogliamo mantenere in salute il nostro intestino ci serve un multiceppo, quindi per esigenze particolari possiamo ricorrere a un ceppo unico. Per il mantenimento sul lungo periodo, per un intestino sano, la salute complessiva generale, multiceppo. E per quanto? Per quanto tempo? Sì. Beh, si possono assumere a cicli, per esempio uno o due mesi di probiotici, poi si fa una pausa, poi si riassumono di nuovo se serve ancora, così è via, lungo l'anno. È tutto un ciclo. Non si sbaglia quasi mai con i probiotici. Bene, di questo siamo contenti. Dottora Voledo, grazie per essere stato con noi. Ma grazie a voi. Se volete scriverci, avete dei dubbi, avete delle domande, sarebbe benessere @radio24.it oppure la nostra pagina Facebook. Vi ricordo che avete ancora in tempo per scrivere le vostre 100 parole per raccontare un ricordo. Abbiamo lanciato questa iniziativa in settimana col dottor Ballerini a proposito dei ricordi, mi ritorna in mente. Che cosa vi devo dire? Voglio ringraziare Laura Vanossi in redazione, Roberto Scaltriti in regia alla parte tecnica. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e come sempre vi aspetto domani. Dottora Voledo, alla prossima. Alla prossima. Essere e benessere.